soprattutto, quelli lì sono più bastardi. Già, lo so già. È un giramento di coglioni sta diventandolo. Cazzo. Ma molto si è iscritto anche. Da un po'. Che sto leggendo Andrea, mi comunica che domani 20 gennaio per motivi lavorativi non si svolgerà l'azione delle 11, piglia di rincuro. Chi è? È l'autoscuola, che domani non si svolgerà la lezione delle 11. Che modo stai spendendo tu? È un po'. Io ho speso 550.000 lire. Beh, solo avrei speso di meno. Avrei preso un'altra una macchina, avrei dato l'esame con la macchina di qualsiasi persona. Siccome ci vuole quello doppio comando, ho dovuto fare il passaggio, mi è costato 300.000 lire dalla motorizzazione alla scuola guida. Sì, alla fine te la pigliavo in scuola guida, era fattibile, ma... Hai preso un doppio? No, siamo quasi lì. Il doppio avrei speso, per forza. Tu sei convinto? Cazzo, tu sei convinto. Cazzo, ne spendi di meno, molto molto di meno alla motorizzazione. A scuola mia ne spendi molto molto di più. Cazzo, mi fai niente, preso 3.000 euro per piacere la patente. Ma stai scherzando? Ma cosa si dizendi? Ma cosa si dizendi tu? No, non frattacchiamo. Cazzo, ci vorranno 1.000 qualcosa adesso, ci vorranno. Prima era anche di meno. Tanto uscivano bocciati, ecco perché ho preso 3.000 euro. Uscivano bocciati. Già, 1.000 euro sono tanti, sono tanti. Perché adesso sono aumentate le cose, sono aumentate le imposte. I bulli sono aumentati parecchio. Se facciamo un calcolo, cazzo, ho preso 350 euro, 300 euro, là. Ma allora erano altri tempi, però costava di meno, te lo sto dicendo io, costava di meno allora, anche a scuola guida costava di meno, ma adesso le tasse sono aumentate, è una cosa paurosa, cazzo, solo di bollettini io ho pagato una cosa a gatto che fa paura a me, cazzo, cioè, una cosa che fa paura, di bollettini, cosa cazzo ho pagato io. Io ho fatto il rinnovo nel 2019, però sono quasi 100 euro. Lo so, è un casino, è un casino niente qua. Un tiramento di balle, devi stare attento, non è una cosa facile. Soprattutto io questi giorni non sono tanto in forma e sto sbagliando parecchio. Adesso io mi sto guardando tutti gli errori. Casino. Aspetta, no, l'ho preso nel 2000, aspettato nel 2000. No, non so quando l'hai presa tu. Ti conto, c'ho 21 anni. Nel 99 l'ho presa. Scappa. Sono un po' di cose nuove da allora adesso. Quante domande erano? 30 domande con te, no? No, di meno. 30 domande erano, come le fanno l'AM adesso? Io mi ricordavo di meno. Allora, ti ho appena spiegato che no, ti fottono. Se tu studi, un esempio, un cartello stradale, no? Ti faccio un esempio. Però, me lo studi altro, no? Per un esempio che ti sto facendo, magari loro su un cartello stradale ti fanno 5.000 domande, ti possono fare anche domande su cartelli stradali, e magari loro fai anche un incrocio, ti fanno delle domande, più domande, chi passa prima, chi passa dopo, capito? E ti fottono lì. Sì, ma lo so. La manovra di sorpasso può essere di norma effettuata a destra sulle autostrade. Allora, sto facendo dei conti, ma io una volta ho rinnovato la patente due volte, l'ho presa nel 2000, nel quello prezzo. Siamo nel 2021, quante volte ho rinnovato? Due volte, giusto? Sì, dieci anni, sono vent'anni. Ma tra poco ve la rinnovo. No, sono rinnovato nel 2019. Vabbè, sono il coglionito io. Mi scade nel 2029. Chissà se qualcuno era vivo. Scappa. Dei ripassini, cioè provate a rifarli, non ti ha fatto nulla. No, cosa mi interessa, non mi credo più bisogno. Ma di chi pone che leggi strana, guai, tutti senza patente in Nicine. Oh, mica, cioè, una volta che ti prendo la patente sono quelli, vabbè, io già conosco cartelli di precedenza, divieti di sorpasso, tante cose, limite massimo di velocità, quelle cose lì sono le cose più importanti. Poi quando stai attraversando, cioè stai passando una strada dove ci sono le strisce pedonali, devi andare piano piano, non camminare a 200, un metro di niente. Lo so, buia. Ma non impareranno mai, per i buoni come ti pare ti piace, ma non imparerà mai la gente. Aspetta, sto facendo un calcolo, allora, 99. No, io l'ho preso, 99, ok. 99, 10 anni? Sono 2019, giusto? Ciao. Adesso ho fatto zero, va, ho ripassato gli errori e me li devo ricordare queste domande io. Poi ho fatto due rinnovi, anche ho fatto il primo, mi hanno dato dagli anni, c'ho la patente vecchia, me l'hanno lasciata quella, non quella in carta, adesso sono in plastica, anche ho fatto quella e questa qua in plastica, sono due rinnovi, sono proiettori di profondità, luce anabbagliante, esclusivamente nei casi di pericolo immediato. Beh. Lo faccio. La variante. Consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità, luce abbagliante, esclusivamente nei casi di pericolo immediato. Quelli, la variante li usi quando è poca visibilità, no, che è buia la strada. Poi ovviamente secondo dove stai passando, che incrocia la tavola che devi passare. Ma la domanda è questa però, il pericolo immediato, ma di cosa? È falsa. Ah, è alto e pericoloso comunque gli abbaglianti, magari se stai andando verso Porto Dottore, se un esempio, quello che sta salendo devi abbassare e poi a cercare a qualcuno, capito? Sì. Leggo un'altra, poi basta. La distanza di sicurezza dipende dallo spazio percorso nel tempo di reazione. È vero. Bravo. Ma cosa ti va al solito? Non è che io ho studiato pure io, libro, cazzo, guarda. Mamma mia. Infatti io già prima non ci riuscirò mai, poi privati sta prendendo, poi ci sono riuscito. Sono uscito la prima, praticamente. Ho fatto zero errori e ho fatto 5 guide più quella dell'esame, 6 guide. Capa, ti sei uscito. Adesso io mi devo mettere d'impegno, mi devo spaccare il culo proprio per fare questa patente. E me la voglio prendere una volta per tutte. Lo sai che adesso c'è un'altra regola. Ti entra l'esaminatore in macchina e lui ti fa delle domande. Questo, mi scusi, questo segnale a che cosa serve? Questo comando a che cosa serve? Ti fa delle cose essenziali. Se tu non li sai rispondere, non ti fai manco buono in moto. Dice, ci ripresenti alla prossima volta. scuola guida, ho fatto un paio di guide, prima 5 guide ho fatto, obbligatorie, sai costavano, aspetta, se 15 euro l'una o 18 euro l'una, non mi ricordo, ma 18.000 lire, scusa, non 18 euro, 18.000 lire. Poi all'esame eravamo in due, io e un tipo, una ragazza è uscita prima di noi, lì in viale San Francesco, no? All'epoca c'era il semaforo lì, cazzo non si passa con l'arancione, arancione, arancione, con rosso è passata, buc, si batta subito l'anni, subito. Invece io con questo qua, prima ha dato l'esame lui e poi io da solo. Siamo usciti da soli e ho fatto Ponte Rosello con la micra, la benzina, Ponte Rosello, via Pascoli, il chilometro, dove ci sono i parcheggi lì al chilometro, la spina di pesce. Vabbè, per essere di macchina mi sono levato bene lo specchietto, mi sono messo la cintura, tutto quanto. Siccome la macchina non è, cioè non è in piano, capito? Comunque, come sono entrato, ci ho messo la prima, mi sono levato la cintura, vabbè, poi ho fatto, vabbè, tre regolazioni degli specchietti, vabbè, come li volevo mettere, cioè come dovevo metterli per me, no? Perché ognuno di noi ha come si dice, c'è chi è più basso e se deve regolare diversamente, no? Vabbè, niente, poi sono arrivato lì e ho messo in prima, ho tirato il freno a mano, ho spento la macchina, mi sono levato la cintura, ho detto passa dietro, metto una firma qua, questa è la tua. Perché la patente è già fatta, se poi perdi sono cavoli tuoi. È un beduino, magari era la micra di De Monti, cioè, o no? Perché allora c'era, lui c'era. No, non c'entra niente, io con De Monti non c'entro niente, ma ieri c'è la piazza in chiva a pagamento, è stato via. No, io no. Privato. Ma non è mica vero, non ti regalava De Monti sì, battente. Un bel gente dice bugie, dice frottole. Non ti regala patente, tu. Pagavi di più, ma ci dispendono adesso 500.000 lire e pagavi 1.000.000. Cazzo, mi prendo le preso un bel in ambito. Non ce la facevo a prendersi la patente, no, ce la facevo, bisogna che sono bei 3 milioni. No, ammara. Cazzo, non riesci a pigliare sfida, mi credi, poi andava, abbandonava, e lui aveva senza patente, c'aveva già la macchina e tutto, abbandonava sempre. Magari in canta, quanta gente l'ha fatto così, un po' di gente, si iscriveva a scuola guida e abbandonava, cioè se ne fava un'idea così. Sì, ma se tu prendi un impegno, trai biglia la patente, punta e basta. Cazzo, ma cosa devi esserci, boh? Io non capisco. Se io prendo un impegno, lo devo portare a termine, ce la devo fare a tutti i costi. Adesso è fatto così, devi arrivare alla scuola, alla motorizzazione civile giù. O ti porta lui, Andrea, nel caso è il nostro istruttore, o ti porta lui o qualcuno, ti vari tu. Vai lì, entri dentro la motorizzazione, devi mettere il codice fiscale nel computer, devi mettere. E poi parte il programma, capito? Vabbè, prima già era più facile, adesso è molto più difficile, ma è anche molto più costosa. Ehi, ti sto dicendo che sono aumentati molto i costi, sono aumentati molto le marche da bollo, tanti cigogi, mi capito? È una cosa che non si gridi, che papigliati la battente e te ne fate ne bassa pensamenti la gana. Lo so, Anto, purtroppo è un casino, non è facile, siamo in fa, piano piano, abbi fede. Se fanno ancora gli esami, come si chiama? Se fanno gli esami a motorizzazione. sì, proprio lì. Da lì praticamente funziona così adesso. L'istruttore ti deve preparare bene, cioè a scuola guida ti devono preparare bene, poi devi andare lì e dare l'esame. Tutto il discorso. No, ho capito, gli esami scritti, mi capito, ora c'è orale, scusa. No, devi farlo al computer. Capito. Adesso funziona così. Lì, te l'ho detto, per aprirti il tuo programma, devi scriverti il tuo codice fiscale nel computer. E poi ti apre il tuo programma. Nome e cognome, eccetera, eccetera, data di nascita. E lì cominci a fare l'esame. Se no non t'apre. E così è lui. Vedo il giramento io. E che io me la devo prendere per forza, se no qua. Per quanto mi sta sulle palle a me la macchina, perché troppi anni sono stato in mezzo ai mezzi, in aggiunto di gote di grude. Dico la verità, se non stato bene di soldi, di tutto, forse non l'avrei neanche presa, perché no, me ne ero stato barricca pure me, boh, aveva chiamato uno, mi aveva fatto fare comande, boh, perché no, boh. La verità, o forse l'avrei presa, ma non me ne era fottuto nulla, capito, perché troppi anni in mezzo alla strada, troppi anni... Cioè sinceramente, naggio gli yo-yo pieni, la giaccamanna, naggio, capito? Anche se guidano gli altri, però a me no. Cioè, dopo tanti anni non mi piace più a me stare in mezzo alla strada, cioè. E con questo lo guardano qua, come il 4 gennaio 2020, come richiede la patente B da privatista, procedure e passaggi. È un casino. Adesso il libro non li vendono più, o sì? Ce l'hai il libro? No, c'è un'applicazione. Vedi, anche lì sono soldi risparmiati, poi alla fine vabbè, cazzo, i bagagli blu, i bagagli. Vabbè, se vuoi te lo compri, ma non ne ha quasi più nessuno neanche. Praticamente se lo comprendi, se non lo comprendi, ma poi c'è anche scritte le domande sotto, c'è anche il coso nell'applicazione. Io c'ho quello guida e vai, c'ho. Adesso ci sono un sacco di regole nuove, da quando l'hai presa tu adesso ci sono un sacco di regole nuove, vabbè, forse quando l'hai presa tu c'hai la A1, cioè è patente B con la A1, capito, per guidare moto fino a 125, invece anni fa c'era proprio la A, poi potevi guidare moto superiori a 125, cioè tutte le moto, adesso non è più così, ma penso che anche la tua sia così però, puoi guidare moto fino a 125, 11 kW, e poi puoi guidare il cinquantino normale e basta. È un casino. A voi stanno in bocca pure un'altra cosa, dall'anno scorso, qualche cosa anche della ciccia, ma poca roba, qualche domanda tipo ci dai della patente del camion, qualche domandina così in più, come si dice, è un casino, sì, perché cazzo ci sono un sacco di domande, ci sono, devi stare attento, devi stare, è così. Ah, beh, certo. È vero. E vabbè, il discorso è che quando devi studiare, devi stare attaccato al libro, vabbè, c'è l'applicazione. Comunque ci stavo molto attaccato. Cartelli, poi vabbè, molti incroci, che sono quelli che ti chiedono. Sì, incroci sono un rompimento di scatole, sono. deve stare attento, se non deve stare. A me mi confondono molto l'incroce. Questi gaggate che ti dicono. Poi sono tutte domande a trabocchetto, tutte domande strane, me. Che se non le capisci sei fregato. Sei proprio fregato, sì. C'è un sacco di cose. Per esempio, cosa in gioco, cose che non si sanno. Col carrello appendice puoi andare quanto, cioè, cosa ne so, quanto la velocità della macchina, una cosa pericolosa, eppure si può fare. C'è in autostrada e puoi andare a 130 anche col carrello appendice, ma non rimorchio però, rimorchio è un'altra cosa. Rimorchio è un'altra cosa. C'è un sacco di cose ci sono strane. Ma dove si dà la precedenza, tanto a destra o a sinistra? Destra. Perché si dà a destra? Perché è così la regola. Allora, ti faccio un esempio, allora. Allora, quello ti posso dire. C'è lì una via. Di fronte al campo lì a Latte Dolce, no? C'è dove è Piazza del Mercato, con la via che entri lì, no? Poi dall'altra via ne escono le macchine. Da chi la devi dare? La devi dare tu la precedenza o te la devono dare loro? Tu scendendo, dici? No, oh, allora, vista il campo della Latte Dolce. Tu scendi, così è. No, la Piazza del Mercato è vista la Latte Dolce. Ho capito. La via che c'è, no, quella lì dove passi, dove è piatto l'altra che rimane un po' stretta lì, che passa anche il tram, quando c'è il mercatino, dico. Ho capito, dov'è? E chi è che c'è la precedenza lì? C'è una via che te ne esce, ce l'hai tu o quelli che escono dalla via? Allora, tu parli di quell'incrocio lì, vero? Nella pizzeria. Non è un incrocio. Prima non esci dalla pizzeria, è proprio prima della pizzeria, c'è una via lì, non so che via sia. C'è un'altra via che. Allora, tu stai dicendo via Mundes. C'è la via, allora c'è via Mundes. L'altra che scende giù via Bottego. L'altra cos'è? Via Kennedy, Marasucci. C'è l'altra più giù, quella che c'è vicino alla pizzeria, quella è via Kennedy. C'è tutto quell'incrocio, via giù c'è via Spinola, che via voi sapete? Non le conosco lì con le vie. Devo vedere bene l'incrocio, io non lo so. Non è un incrocio, tu. C'è una via, che ne escono delle macchine da lì. Ho capito. Chi parli? Quella via dove entrano i circoli lì, via Mundes? Non lo so che via. Non lo so, va. Devo vederlo. Vabbè, comunque si dà sempre a destra la precedenza. So che si dà a destra, perché il nostro senso è così. Se è stato in Inghilterra a sinistra. Come se? Se è stato in Inghilterra la devi dare a sinistra. Franza. E così è la regola. Che dove ce l'hanno la guida loro? A sinistra in Francia. No, in Inghilterra, non in Francia. Anche in Francia? Non ne ho mai visto in Francia, mi stai sbagliando. Ce l'hanno in Inghilterra, mi pare pure in cosa, in... come cavolo si chiama? In Australia, mi pare. Ce l'hanno anche in Francia, la guida a sinistra. Ah, stai dicendo? Non ti ho mai visto un francese che andare a sinistra. Allora. Allora, aspetta. Vedi. Ad oggi gli stati con guida a sinistra sono negli Stati Uniti, come in alcune zone dell'Europa, verso la fine dell'Ottocento. La guida passa da sinistra a destra. Si racconta che in Francia. Allora, ma cacchio, non lo vedo. Ma siamo sicuri che in Francia la guida a destra? Sicuro sì. Aspetta, sto leggendo. È in Inghilterra che guidano a sinistra. In Francia guida. guidiamo come noi, a destra. Ma sai che io quando prendo la patente sono limitato, non le posso guidare le macchine che superano quei kilowatt, ma non la cilindrata non entra nulla. Ho la limitazione sui kilowatt, io posso guidare un 2008, ma se c'è già meno di quei kilowatt lo posso utilizzare, lo sai. Però gli autocarri li posso guidare tutti. Aspetta un attimino. E se devo fare scuola guida con qualcuno posso guidare anche macchine di grossa cilindrata. Se devo fare... Però quando prendo la patente no. Quando prendo la patente devo guidare macchine limitate per me, che non superano, mi sembra, 55 kW. Non mi ricordo bene adesso. No, sto chiedendo ma non mi risponde. Te lo sto dicendo io, fidati. Ora ci avvedi, aspetta. Allora. Guida. Guida a sinistra tutte le nazioni che vanno al contrario. Allora. C'è vabbè, Austria, Bahamas, Brunei, Cipro, Dominica, Fiji, Giamaica, Giappone, India, Indonesia, Irlanda. Sto come te la faccio a guidare a sinistra. Aspetta. Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Isola Salomone, Kenya, Macao, Maldive, Malta. Stavo dicendo, le colonie inglesi, cioè, gli inglesi guidano così, li guidano a sinistra, noi li guidiamo a destra. E ho capito. Non ci sei mai stato in quei posti lì? No. Sei mai uscito fuori dalla Sardegna? Sì, sono andato, vabbè, visita militare ho fatto. Sì. E tu dove sei stato? Anche io sono andato alla Spezia. E ho fatto giro con la Spezia. Pure io l'ho fatta. E mi sembrava tutto diverso, boh. Cazzo, nel 90, 92. Ah, io dopo, non me lo ricordo adesso, ma dopo. Mi ricordo che c'era a 18 anni, ho 36 anni. Più di 20 anni fa l'ho fatto. 18 anni fa tu, ce n'è da trasferire 18 anni fa. A 18 anni ti chiamano, vero? Io ci ho fatto tra 17, quasi 18, mancava poco, là. Nel 92, cioè avevo 17 anni. Fatto il conto, oggi 46, sono passati quasi 30 anni, 28 anni sono passati. Siamo una via. Anni belli erano quelli, io ero ragazzino in quegli anni lì. Militare, sì. Oh, poi sono andato a Cagliari e poi non mi hanno più chiamato, ma la destinazione ma non mi hanno più chiamato. Coglione, scemo di guerra sono. Avrei dovuto insistere, per la vita che sto facendo avrei dovuto insistere, va. Forse ero stato più bene adesso. Ho dovuto insistere lui perché per la vita, se io sapevo di fare questa vita qua, avrei fatto di tutto in mezza maniera che mi prende, gli avrei rotto le palle proprio, avrei fatto in mezza maniera che mi prendessero con loro, avrei fatto, se io dovevo fare questa vita qua che sto facendo, no, avrei, te lo giuro che avrei fatto di tutto, di tutto, di tutto. A me non sarei stato bene, avrei avuto uno stipendio e a 50 anni alla metà di 50 anni pure la pensione, bella, cioè penso che mi pare a 56 anni o altri, non mi ricordo, i militari fanno prima in pensione del lavoratore, fa che fai anche a 60 anni, scatto, va la pensione assicurata e c'hai tutto, contributi e di tutto di più. Lo so, dillo a me. Tu hai rifiutato lo stesso. Come? Ti hanno mai chiamato a te? Fai militare? Sì. No. In caso l'hanno fatto in tre. E quattro lo fa. Ah, l'hanno fatto in tre, entro fratelli. Yes. Come il quarto non lo fa? Il quarto non lo fa. A regola è una cosa così. Regola. Ah, ho capito. Guarda, io ti giuro una cosa, che se sapevo di fare questa vita sacrificata, così di, cioè, io gli avrei rotto le palle a loro, datemi, voglio venire con voi, cioè, avrei fatto di tutto, concorsi contro concorsi, per cercare di entrare, a darmi anche un posticino del cavolo, però l'avrei fatto. Perché no, non si può vivere così, ti giuro, credimi, no, non si può vivere così, sacrificato, fa nulla, fa pochi di là, lascia perdere. Lo so, nulla non è peggio, lo so, tanto, così come ha stato pure lui, o me, cantina piglia una miseria, in niente da voi. Cioè, se vuoi arrivare da più, 30.000 lire al giorno, o sono 30 euro. Non si è pigliato a fare un guru ribassone. No. Ritornando indietro, guarda, te lo giuro, ritornando indietro avrei rotto le scatole a tutti, abbiamo fatto mezzo in maniera di pigliedimi, mezzo in maniera, cioè, ma stiamo scherzando, contributi pagati, IRPEF, tutto a voce, che se ne va con una pensione allucinante, a voi vari di ne in busciaccara, perché cazzo, cioè facendo, minimo sono, dopo diventi caporale, così, tenentino, minimo come se già pigliato già 2.000 euro di stipendio, e sai da Dio, sai, non vivi da disgraziato come ti vivi, pacchetto di racchina, e non sai ma così va a arrivare a pensione, ma chi non sa ammazzani. Ma assicurato sei qua, sì? Sì, un po' così, un po' buono a me. Antu, sei giovane, vabbè, alla fine io, ma qui i contributi non ho, se lavorate in nero, fa così, non c'è mai niente di che. Ma secondo te si può passare una vita così, ma chi si ammazza in tutti, guai, no, per corora che almeno che mi dia un po' di un qualcosentina Gesù Cristo, che ci dia una piccola gioia, ci dia, perché sinceramente di questo mondo qua non mi piace fare più parte, ti dico la verità, no. Mi gioco il sugamato della gente che c'è in giro e di come si svolgono le cose, no. Sinceramente mi viene di un vomito, per carità, ne ho visto di cotte di crude, gente bezzo di mezza, proprio, scusando dalla frase, ma no, non sei bo. Cosa devo dire, Antu? Lasciamo perdere, non tocchiamo a quel tasto. È proprio, cioè, io non dico essere umiliati, no. Non si può andare avanti lui, cioè, e dopo ti devi gagliare fullo mondo, cioè, non sono cose che si può andare avanti, sì. Se riesci a capirmi cosa ti voglio dire, per carità, ne ho sofferto di tutte le maniere, ne ho sofferto negli anni, per carità, lasciamo perdere. Ma una volta sono entrato a lavorare in questa impresa, c'era il padre di questa mia amica, tramite questa mia amica, lui era capocantiere, perché capocantiere era capo di cazzo, mi ha preso in odio, perciò molte volte mi ha umiliato, e io purtroppo dovevo stare il dito come hai detto tu e abbassare la testa e andare avanti. Ma mi ha umiliato, un bel. Vabbè, all'epoca magari ero diverso, ma che non viene adesso a umiliarmi a vedere, non penso che ci abbia il coraggio di farlo. Scopo, ne abbarre o goche. Ma, merdoso, stavo bene lì con l'impresa, Tu conta che prendevo 1.600.000 lire, anche 1.800.000 sono arrivato, con gli straordinari. E un bagà 2, 1.800.000 erano un bel dinami, in lire. E stavi bene Lu, non ti potevi lamentare di niente. Ma va, cioè prima in quegli anni lì era buono, era. Ma va, siamo sempre più andenti, sempre più carriaggi bisocca. Sempre più carriaggi bisocca, per carità. Ehi, vabbè. È andata bene, merdoso. Poi un giorno, ma se siamo andati a Ghitru, si imbriagava. Entrava a bar alle 8 a fare colazione e, come si dice, e colazione, caffè, e poi iniziava una mazza, cioè iniziava a mezz'ora cotto in briago e veniva a rompere le balle e sappiamo sempre con me. E alla fine un giorno non ci ho visto più, ho detto vabbè io da come ne vado. Infatti ho chiamato mio fratello, ho fatto venire a prendermi. Poi io non l'ho più visto in giro, E chi l'ha più visto? Sai giorno che mi sono andato al cantiere. Infatti ho detto, passa così così, è sempre ubriaco quest'uomo. È sempre a rompere i coglioni a me. Poi io stavo imparando, ho usato lo scavatorino, mi ha detto cosa, vai, farà lì, che non mi sei capace, o fin dia, no? E poi andava pesantemente. Va, gli è andata bene tu, veramente, se non mi rovinavo veramente, di cui cazzo l'ubico, no la taglia, no, quella punta, la parte della punta. Se l'ha proprio scampata veramente quell'uomo. Al padrone della ditta non gliel'hai detto. E purtroppo era lui il merdoso, Che capo cantieri, capo di cazzo era. Scusa se te lo tiro, non fa niente, va. Come te l'ha appoggiato nell'oretto, mi ha già tirato la gommetta. Capitato così, ma non, ostia. Sono cambiate le cose, ragazzi. Allora, mi umilia davanti a tutti, ma ragazzi che rilassi, ma va a caga. Come arriviamo a umiliare, ma tu non si permetti di manco. Cosa mi umili davanti a tutti. Poi una volta ho fatto entrare questo amico, scavaturista. Primo giorno tutto ok, secondo giorno tutto ok, terzo giorno stava già iniziando a rompere le balle, subito l'ha fermato, mi ho detto tu, giovanotto, io non sono guruca io me. Tanto la gaimada, poi se capocantiere a me non me ne frega niente, sono qua per lavorare, no, per sentire a te, ci viene a rompere le balle a me, subito l'ha fermato. Infatti poi lui è arrivato e me ne sono andato. Capa. Ha fatto bene a fare il ripitallo. Cioè va, tu. Però sì che va via burro la mano di Cretta, va via, lo dico. E fate bene a fare il ripitallo. Era una santa di cosa, tu conta, noi partivamo alle 7 da Sassari, il cantiere era a Chiesi. Alle 7 mi alzavo alle 6 del mattino. Tra cosa l'altra, fare colazione, lavarmi, cambiarmi. Arrivavamo là alle 8 e a casa rientravo alle 8. Alle 8 arrivavo a casa di sera. Tutto di sera addorrave. Sì, a chi. Siccome noi stavamo facendo la fogna nuova lì, una via vicino al comune a Chiesi. Fogna e tubi d'acqua che abbiamo cambiato. E mano a mano che aprivamo, chiudevamo, no? Poi con lo scavatorino. Più di una volta l'ha agganciato il tubo dell'acqua, l'hanno rotta, dovevo scavare, fare tutte le aggiunzioni, un casino. E tra una cosa e l'altra, e ti fermavi al circolo, insomma, alle 8 arrivavo a casa. Beh, altri tempi. Allora se ti ha più bella. Sì, vabbè, dove la capigli c'è? E l'abbiamo avuto una capanata a faccia, l'abbiamo avuto prima di andare a minne, da voi. Cioè, poi se mi vuole mandare via mi manda, però intanto ti ho fatto un gaimà. Cosa è l'impresa di Sassari? Sì, l'impresa era... Adesso mi ricordo che c'era la zona, boh. Sai che era lì a coso a... vaffanculo lì a vicino all'ospedale, che zona è quella, la che ti porta anche la cosa all'agenzia delle entrate. Piandanna lì era. Piandanna, bravo, cazzo mi veniva, sì, a Piandanna. Ho capito. Chi vi l'impresa? Magari questa impresa che era accaduto tutti quanti cose in chi però perché io ne vedo uno che lì c'ha tutti quanti camion lasciato. No, non ho lasciato niente lì, no. L'impresa era lì, partivamo da lì, capito? Ho capito. Te lo ricordo il cognome? Di che cosa? L'impresa. No, la ditta si chiamava Confosar. Non me lo ricordo adesso, dovrei chiedere a praticare. E io ho il mio padrone di casa che è impresario qua. La già lo conosci magari. Vabbè, questo io ti parlo che di 20 anni fa, tanto 20 anni fa che era con quell'impresa. E chi è il padrone di casa tua? Azzena. Chi? Azzena, Vanni. Ah, di Vanni a casa. E Maria le conosce bene. Conosce i fratelli, la sorella. Conosci? E ne ha una carica pure, lì la vuole affittare. Pagando la giuditto che pone l'antenna, ma è tanto per uno che preoccupare. Mi ha detto. Dice che è il cognato il radiamatore. Sì, già, io vabbè non lo conosco, però Maria lo conosce bene. Ah brava, penso, ma non ti preoccupare, mi ha detto, metti quello che vuoi, mi ha detto, sul tetto. Non ti preoccupare. E dice che c'è il cognato che è radiamatore, quindi no. Già le conosce queste cose. Ma te l'ha fatto il contratto della casa, sì? Appunto l'ha fatto il contratto. Se no ti attaccano i leva, eh. Non c'è un contratto, non ti attaccano. Perché non fai... Vabbè, tu non sei assicurato, tanto. Se facevi la denuncia del reddito, la denuncia del redditi, ti beccavi di là ogni anno. Sì, adesso piano piano devo fare prima un'altra cosa, devo fare, poi dopo già lo faccio. Ho capito. Perché se ti stai pagando l'affitto, poi se ti stupisci di là, nell'acqua e là, non dico tutti i gatti che si impegni, però la parte la rimborsa. Che cosa? Della rinuncia ai redditi? Cos'è questa cosa? Se paghi l'affitto, no? Tutto che su li paghi, poi deve essere assicurato, deve avere il CUT. Ci sono gobbiani al suo CUT. No, te ne date, capito? E via, vabbè, dai, mi sa che tu sei arrivata allora dal merendero come ti dici a Bacchiso, dice non sta manco bene quell'uomo poverino, mi dispiace. Tanto va Sarro, mi guardo un po' di TV, se no a pigliare sonno da voi, se parla all'una alle 2 di notte, poi c'è meglio che adesso. Mi metto, tanto la mattina. Veniva una tipa già su un computer che gliel'ho sistemato. Qualcosina, meglio di niente. Meglio piccolità che la parità di Ziaghito. Ah, ti voglio dire una cosa veloce. Ti ho già comparato due alimentatori per le cose, tutte e due da 30. Uno un bacio a scoppio ritardato, la ventola. E l'altro rubati subito. Sono di due marche diverse. Sono. se l'ha inciudata. No, no, no, è proprio fatto così dalla casa, Non è inciudata, no. Poi batte. Perché prima parte piano piano, deve essere come si scalda il circuito, poi va di più. Magari il coso, come si chiama? Come fa partire la vetra, magari ci mette un po' di più. Non la mi accende subito. No, la mia è fissa. Ma aspetta, la tua è fissa tu, o si accende quando scalda? No, no, allora ti spiego. In uno va subito, come il tuo, perché sono quasi, sono simili, sono uguali, diciamo. Va. In uno di un'altra marca che ho comprato, cioè, sempre dai cinesi lì switching, con le cose bianche, con la. Va, prima va piano piano la ventola, poi dopo si accelera. Come che abbia un termostato, capito? Sono una cannonata che si alimenta a tour. Io stavo leggendo un forum, dice che sono di buona costruzione, stavano dicendo, sono buoni, stavano dicendo. Sì. Non lo so, guarda, quello che ho preso io da internet è molto meglio di quello che vendono i cinesi. Poi c'è la stessa cosa, comunque questo qua si vede, la scheda è diversa, è molto molto meglio e vanno benissimo. Adesso l'altro giorno me lo riporto qua, mi metto altre due attacchi rosso e nero, perché l'altro diceva due, questo qua ne è uno invece, può servire, no? Sì. Ah, guarda, non riesci a comprendermi una cosa, se attacco gli altri radio, non me lo fanno, gli altri radio che ho, però qui c'ho 87, se attacco in parallelo, guadagnare, mi si chiude un gozzo, il quadro dove ci sono i canali, e non funziona, non anda, non capisco perché faccia così, gli altri apparecchi non fanno nulla. Se li metti in parallelo, allora devo mettere l'apparecchio in un alimentatore e un apparecchio in un altro alimentatore, allora va bene. Copato come il mio a 50 e non sbagli, 20 l'ho pagato, 23, 25 l'ho pagato. Yeah, ma non è problema di alimentatore, no, è proprio un problema che quando li metti in parallelo, che li attacchi, cioè in parallelo, c'è la morsettiera, metti negativo e positivo, negativo e positivo, anche là, quando tu in quel momento lì non va bene, non funziona bene, non ha già compreso una cosa. Tu cosa fai? Positivo e negativo attacchi assieme, giusto? Rosso nero assieme, giusto? Poi se ne passano altri due, rosso nero, giusto? C'è la morsettiera grande, cioè, questo qua è a 4, ha 4 cose, quello là è di più, ci metto più elementi. Sì, ma devi fare rosso nero, mi ha detto, per accoppiare. Sì, cazzo, lo vai si chiuda, ma va a Napoli. E vabbè, tu compatto da 50, vedrai che non si spegne. Già regge un bel da 50, voglia. Quell'amplificatore del tuo da quanto è? Forse non è compreso. Il problema non è il coso. Non c'entra niente le ampere, non entra nulla. Il problema è che quando tu l'attacchi in parallelo, chi suba il ghiaccio 87 fa questo difetto qua. Chiaro, perché quanto assorbe? Assorbe, niente, lo accendi e fa quel difetto, devi separare gli alimentatori, lascia perdere queste cose qua, tu si rubboni nella stessa morsettiera, non va bene, devi prendere un alimentatore, lo devi separare, tu prendi tutti questi che c'ho qua e non lo fanno. Ho capito. E invece a me questo che ho a casa, vabbè, tutti i pizzi adesso ho fatto, mi ho recuperato tutti quei cosi, dai, il rosso nero, dai, le boccole, quanti li puoi chiamare, vabbè, qualche condensatore ne ho staccato. Poi c'è quello lì, funzionava, benissimo, perfetto, solo che mi mandava QRM. facevo salire il QRM nel baracchino. E infatti baghi su. Adesso sto usando quello. Cazzo, pesa un drone, ma che pesa boh, 10 kg pesa. Quello da 25 ampere della ZG, quello a coso, a. Come si chiama? Bravato Claudio. Vabbè, funziona bene. Scappa, no, questi già non creano nessun tipo di problema. Grazie a Dio sono silenziosissimi gli apparecchi. Non creano nessun problema. Ok, Luca, adesso ti lascio io. Mi dromo burueo, ciao, buonanotte. E ci sentiamo. Ciao ciao, buonanotte anche a tutti gli ascoltoni. Ciao a tu. A domani, buonanotte. Ciao ciao ciao.